bari, sono di rompi il cazzo e non ti vuoi fermare. Bari, sono sempre più tardi te ne vuoi andare. Con le tue slide e il tuo Down Jones e tanti numeri da raccontare. Ti devi mettere in testa che alle 6:30 devi andare via. Se no si rompono il cazzo, noi cruciano e tutta la regia. Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una moschea di Istanbul, stanno pregando la loro religione di pace, ma a me non me ne frega un cazzo, mi interessa solo ed esclusivamente della zanzara. Siamo veramente over the top. Cruciani, li senti i canti napoletani? La zanzara, direttamente da Dubai. Voglia balla qua prima. Cruciani, a tua manca la dignità, tu non hai di dignità, sei senza dignità. Brrr, coglione che sei. Sono carico! Sono carico, ragazzi! Ragazzi, ragazzi! Dimenticate una cosa, non mi sono ancora dimenticato gli insulti che facevate a me a Cairo. Con Cairo insultavate me, io so che questo, ve l'ho detto, ho la gola profonda. Quello che voi fate lì alle mie spalle, io so tutto, perché la mia gola profonda mi dice tutto. Quindi voi siete sempre col mio fiato sul collo. Anche se io non ci sono, voi dovete sempre mettere in preventivo. Abbiamo il fiato sul collo di Mauro da Manto. Sì, perché io sto col mio fiato sul vostro collo. E io vi anticipo sempre, gioco sempre in anticipo, perché siete due coglioni, coglioni, coglioni. Come si chiama Kiss? Mauro da Mantova. Ma ogni tanto sa fa una chiamata Kiss, ci ha rotto cazzo. Hai capito? Eh sì, caro David! Eh sì, caro David! So che sei atterrito dall'idea di avere Mauro da Mantova con il fiato sul collo. Poi sarà vera questa storia che ha una gola profonda dentro la sette che rivela tutti i segreti su di te e su di me. Poi non so cosa può dire il signor Cairo su di me, ma comunque insomma pare che abbia una gola profonda dentro gola... la sette. Sì, ho capito. Cioè gola profonda che parla con Mauro da Mantova. Sì, sembra. Ok, questo è il tema centrale che poni. L'unica cosa che noto io è il degrado complessivo, progressivo e quotidiano di questo poveretto. Sì. E se tu senti e fai fare anche una perizia audio, sì, i denti. Sì. Cioè io sospetto che gli siano, poveretto, caduti anche i denti, perché parla peggio. Cioè tu dici, ormai siamo praticamente al barbonismo. No, poveretto, una cosa da dargli la carità. Gli dai un euro e lo fai felice, poverino. Ma potresti aiutarlo. Potrei farlo, potrei pensarci. Sì, un caso disperato, drammatico. La voce è impastata. Sentilo, perché fa proprio fatica ad articolare le parole. Classico caso, perché gli sono caduti i denti, poveretto. Attenzione, Parenzo ha detto che potrebbe aiutare in caso, sì, come dire, di una situazione che va magari precipitando, sì, aiutare Mauro da Mantova magari con una decina di euro al giorno, 15 euro al giorno. Mi pare troppo anche per le sue aspettative. Potremmo cominciare con 0,50 alla settimana, 50 centesimi alla settimana, e poi via via integrare con un po' di, con qualcosa in più. lui. Ma vedi che però, caso strano, con Sabaeta respingi ogni aiuto. No, con Sabaeta Mauro l'aiuto Mantova... volentieri. L'ho segnalata a alcuni amici imprenditori del gruppo del Sole 24 Ore attenzione, e alcuni attenzione. Imprenditori, amici, eccetera. Attenzione. Purtroppo non posso assumerla perché non ho imprese, non ho aziende e ho già una persona che da noi da tantissimi anni svolge funzioni sì, analoghe. Ma la petizione e quindi resta... sarebbe drammatico sì. allontanarla dai bambini per assumere l'ottima Sabaeta. Ma dopo sarebbe tanti un trauma. Anni, do, sarebbe tu, un trauma, tutte sarebbe scuse, un trauma. Tutte scuse. No, dopo, è un trauma. No, per i bambini è un trauma. Non dopo si può. Tanti è un anni, dopo tanti anni. Sì. Soprattutto dopo, no, so ad esempio no, dopo che tanti c'è un anni signore... di buonismo, aspetta, dopo tanti sì, anni di buonismo, sì, sì. sarebbe stato un gesto molto bello. Tu lo stai rifiutando. Ci sono sì. ancora ascoltatori che continuano a intervenire lo so, a chiedere. Lo so, chiedo scusa. Hai ragione. Chiedi scusa. Come chiedi no, no, scusa? Chiedo scusa agli ascoltatori, hai ragione. Però sto risolvendo la pratica. Voglio dirvi questo, poi veramente mi taccio fino alle 20:50. No, no. Sto risolvendo la pratica. C'è un signore che forse fa anche il leader politico, che vive a Londra, no, beh, paga le tasse a Bruxelles. Ha 11 figli, 11, sì. e pare interessato, mi hanno detto delle persone, a prendere la Roma come badante. A assumere la Rom, sì, sì, a Londra però. Così paga meno tasse ancora, come al solito. Scavafiore, se vuoi ti do il numero di telefono, guarda, così assume... Sarebbe molto bello però, Fiore assumi Sabaeta, sì, bellissimo. Non è male, sì, non è... Sarebbe meraviglioso. Beh, sfatterebbe il mito... essere un fascista nazista schifoso, quindi voglio dire, no? Beh, insomma, solamente se basta solo assumere Sabaeta. Sarebbe un segnale importante, però lui a Londra, girando il mondo, paga le tasse a Bruxelles, ha mille cose da fare, deve andare in giro a fare comizi, deve dire che i negri fanno schifo, insomma ha mille cose da fare durante il giorno, mi pare, e quindi se c'è un aiuto a casa, secondo me può essere un bel segnale. Fiore, signor Fiore. Allora, ragazzi, intanto hai sentito quei due all'inizio del pregevole sì. montaggio del signor Lacorte, sono andati in una moschea e hanno preso per il culo quello che avveniva dentro la moschea. Direi che è un format formidabile. Cioè, ascoltatore della Zanzara, quando vi capita di entrare... Per inimicarsi il mondo arabo, che oggi è in subbuglio, mi pare un'ottima idea. No, per inimicarsi il mondo arabo, stai dicendo. Cioè, sì, per inimicarsi il mondo arabo, certo. Però ti dico, è molto semplice la cosa. Entrate dentro le moschee, se vi capita, e fate questi audio... Noi ascoltiamo solo la Zanzara, cari muslim, un po' da presa per il culo. Andate pure dentro le moschee, vi appoggiamo noi e mandateci gli audio, andate lì a rompere le balle, non a disturbare, per carità, però un po' a far sentire la presenza dentro una moschea. Che ti frega, uno entra là, senti queste voci bellissime, questi canti eccetera del muezzin, le preghiere, intanto dici: a me non me ne frega un cazzo, io ascolto solo la Zanzara, non i muslim, non i muezzin. Bellissimo. Guarda, io ti denuncio, Denuncio. Ha ragione, avrebbe ragione. Allora, partiamo subito dalla follia del presidente della regione Puglia, signor Emiliano. Signor Emiliano, ti che ha visto, detto che il cantiere del gasdotto, chiamasi TAP, assomiglia ad Auschwitz. Poi ha chiesto scusa, ma chiedere scusa non serve a niente. Sono le classiche situazioni in cui uno dice una cosa, tra l'altro la dice e la argomenta. Sì. Il cantiere, ha chiesto scusa, ma il cantiere è in corso, ci sono centinaia di Auschwitz, presidente, vedi le fotografie, è proprio identico, perché hanno alzato un muro di cinta con filo spinato, è una cosa veramente impressionante. Stanno militarizzando, credo inutilmente, una zona della regione Puglia, e tutti i cittadini sono assolutamente indignati per questo. Allora, non è che ha detto una cosa così, l'ha argomentata. Hanno messo il filo spinato, hanno messo questo. Lei vede, proprio così, è proprio uguale ad Auschwitz, perché c'è la militarizzazione. Sì, ma io non poi mi sento di scusa. Ma che cazzo ma vuol dire chiedere scusa? Ma io non mi sento di condannarlo per un semplice motivo. Ma chi condanna? Io non sto dicendo, non voglio l'impiccagione di Emiliano. Sto dicendo che c'è questa roba qui, per cui un cantiere che viene protetto perché ci sono delle proteste. Poi è normale, un cantiere dove viene fatto un gasdotto, non è che possono entrare tutti a buttare magari no delle cose incendiario, non so che cosa dentro. Il contrario, ha fatto un paragone infelice. Ma che cazzo c'entra Auschwitz? Dai, su, è una vergogna. No, infatti è un paragone infelice, però ha chiesto scusa. Ma che deve essere un cantiere? Il giardino dell'Eden? Cosa deve essere? Ci devono essere gli alberi? È un cantiere per fare un gasdotto? Ci sono i ferri, la ferraglia, la protezione, le guardie, è normale che sia così? Ma no, ma hai ragione, non ci sono esperimenti nucleari dentro lì, passa il gas. No, lui è contrario a quest'opera, e quindi ha usato questa immagine forte e fuori luogo, assolutamente. Hai ragione. Allora, l'altra frase cult del giorno Non ci dobbiamo dimenticare, il signor Emiliano era questa mattina a una trasmissione che si chiama Circo Massimo su Radio Capita. Allora, il signor Gianfranco Rotondi parla di vitalizi, parla di vitalizi. Che succede, signor Gianfranco Rotondi? Perché vi dico, vi faccio sentire questa cosa? Dice, che cazzo c'entra Rotondi adesso qui alla Zanzara a parlare di questa cosa? È una però sua è fondamentale. Vittoria. No, Rotondi, sì, l'affossamento vergognoso della legge che dovrebbe limitare i vitalizi. Io li cancellerei del tutto, però non si può fare, quelli passati. E dunque voleva questa legge parificare, sì, parificare, diminuire un po' l'entità dei vitalizi dei politici, quelli del passato, quelli del passato. Non si è potuta fare perché non l'hanno voluta fare. E il signor Rotondi dice, beh, dopo questo arrivano i broker finanziari, dopo questo c'è Riccardo Poli che fa benissimo Rotondi, adesso dopo glielo faccio fare. Oppure c'è una Italia che è la nuova grande prateria dei broker che devono piazzare le pensioni private. Allora si comincia a dare una botta a qualche centinaio di politici e poi tutti felici, trullalla, l'abbiamo fatto a loro, lo facciamo a tutti, si ricalcolano le pensioni retributive dimezzandole anche a quelli che da casa stanno applaudendo alle leggi che propongono l'abolizione dei vitalizi. Cioè praticamente, se non avete capito bene, se si aboliscono i vitalizi poi arrivano i broker finanziari che propongono le pensioni al posto di quelle che dovete prendere, ma dai. C'è tensione, tradimento. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Un altro anno gli serviva la Germania per vincere la guerra, un altro anno. Questo è un genio, comunque, è un pazzo, ma è un genio assolutamente. Uno storico, chi è questo qui? Uno storico. Ah sì, una volta l'abbiamo pure chiamato. Chi è questo qui? Allora, altra voce di oggi. Chi è questo qua? È un ascoltatore di Napoli. Ma sai chi mi fanno impazzire quelli che dicono queste bestialità? Sì. E poi dicono: no, ma il mio è solo. Ma no, ma perché? Ma io è solo un parere il mio. Sì, è solo un parere, sì. Ma hai della contezza, cioè parli per che cosa? Perché? Ah no, ma io mi sono fatto. Ma la terra è piatta. E argomenta. Poi alla fine dici, scusi, ma lei qua. No, ma io la terza elementare, ma per me è solo un parere. Ma mandano i matti quelli a me. Allora, attore, regista Sergio Castellitto. Ai miei tempi la sinistra portava la pasta ai poveri, ora sono i fascisti. Appartengo a una generazione che era abituata a vedere, come dire, la sinistra portare la pasta e l'olio ai pensionati di Ostia Antica e non certo i fascisti. Puttanate, secondo me, puttanate. Beh, questa ragione, idea, Sergio. Sì, ma questa idea che la sinistra debba portare la pasta ai poveri. Ma no, che cazzo per dire che la sinistra era vicina e aveva un ruolo non solo di rappresentanza politica delle istanze popolari, ma anche aveva, come dire, un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà. Ma non contano più nulla queste etichette. Un atto di dai. Civismo estremo straordinario, mentre ora sono pasta e manganello, diciamo, no? Quindi... Allora, la incredibile figura di Palta, di cacca, di merda, ditelo voi, e che ha fatto la signora Asia Argento nei confronti di, quella, vista ieri di sera, quel sì. monumento di Vladimir Luxuria, monumentale, la signora sera, Vladimir Luxuria. Tu avevi 21 anni e permettetemi di dire che, insomma, Asia a 21 anni non era proprio Heidi che scendeva dai monti. Invece sì, lo ero ancora. Sono cambiata molto dopo la violenza. Sei una figlia da... Sono cambiata molto dopo questa violenza. C'è stata un'oggettificazione del mio corpo. Un'oggettificazione del mio corpo. Sono cambiata dopo la violenza subita da Weinstein. Aspetta, non mi fare dire niente. Il messaggio anche che dobbiamo dare è che se un uomo in accappatoio, solo in una stanza, con una crema di massaggio, ti chiedere di fare un massaggio, una donna questo massaggio non glielo deve fare, perché Carasi in questo modo, tu in qualche modo incentivi quest'uomo ad andare avanti, perché per esserci violenza ci deve essere il dissenso. Quindi ho letto... Svegliati! No, siamo nel 2018, non funziona così! Leggi che cosa succede alle donne, tutte quelle che stanno parlando, non è così bianco e nero, ci sono quindi delle zone grigie. Quindi tu per esempio a tua figlia... Tu non conosci. Mamma mia, Luxuria, dici una l'unica cosa che si può dire quando vedi un uomo che ti fa schifo, che si sta spogliando in una camera, grasso, ciccione, orrendo, con le cremine, e che ti vuole dire fammi un massaggio. C'è un solo modo per opporsi. No, me ne vado, esco a testa alta, schiena dritta. E dopo questa violenza subita, tu continui a frequentare Weinstein per 5 anni, prendi l'aereo per andarlo a trovare? No, firmi con lui una petizione. Non ho mai preso l'aereo per andarlo a trovare. Dai. Chi te l'ha detto? Dove l'hai letto? Allora, scusate. Allora non è vero, Vladimir, che continuate ad avere rapporti sessuali con lui consenzienti dopo? Questo è... Tu hai mai sentito parlare della sindrome di Stoccolma? Vabbè. La conosci? Vabbè, dai. Allora, come vabbè, dai, lo sai, la conosci? Che cos'è? Non ci credo. Che cos'è? La sindrome di Stoccolma, amico mio, dai, la sindrome di Stoccolma. Quando una prima acconsente e poi se ne pente, e allora sì che togli credibilità alle storie delle donne che veramente vengono violentate. Perché una in quelle condizioni avresti potuto andare a dire di no, non eri in una villa, Asia, non eri in una villa isolata. Scusa, però lui stava in un albergo, ti potevi andare. Continua a dire che l'ho voluto. Scusate, scusa, Asia, che l'ho voluto. Mi sembra francamente continuare a sei un animale, sei una persona. Grazie. Vergognati tu di raccontare delle baggianate. Ah, le baggianate. Ma allora, tu mi hai portato qua? Aspetta, ma hai detto quella era la più civile di tutte. Continuare a discutere di questa questione mi sembra assurdo. Mamma mia, Luxuria numero uno assoluta. A Luxuria assolutamente la numero uno. La numero uno assoluta. Dove andiamo, ragazzi? Sì, ha mosso delle obiezioni anche vere. Ah dai, ma è l'unica verità. Ha mosso obiezioni. Su, poi faremo ascoltare altre cose. A un certo punto gli hanno detto denunci. Bah, sì, forse, non lo so. Sì, come, però quando. Rimane anche il fatto di considerare la sua condizione, magari, no? Ah, ma quella è roba da psicologi. Vincenzo da Napoli, dai, su. Ma che me ne frega. Pronto? A me delle condizioni psicologiche della sergente quando stava davanti Arciccione regista. Vincenzo da Napoli. Pronto, buonasera, mi sente dottor Cruciani? Sì, dimmi Vincenzo, dimmi. Volevo intervenire per quanto riguarda quella provocazione del gasdotto del tale Notap, che praticamente dicevano che Auschwitz, vabbè, dai, allora io vado contro la sua opinione per il semplice motivo che decisamente è un paragone infelice. E allora io sono ho detto d'accordo questo con lei. Allora? No, però sinceramente almeno ha reso l'idea di che cosa? Che un cantiere non può essere un carcere di massima sicurezza. Ma quale carcere? Non c'è nessun carcerato, cretino. Ma quale carcerato? Lei non è una persona poco intelligente. Ma quale carcere? È un cantiere, punto e basta. È normale che ci siano degli accessi, che sia protetto. Ma che cazzo dite? Io non credo che lei è stato su un cantiere. Sono stato 1000 volte in un cantiere. Ma che è? Ma mica il carcere vero? Ma che è Auschwitz? Ma quale prigionia? Ma qua siamo sicuramente un cantiere, non è il bosco. Allora non rompa i coglioni. Alberto da Padova, dai. Alberto da Padova. Ciao. Alberto, dimmi, caro, dimmi. Io chiamavo per le grandi inchieste della Zanzara. Andiamo, quale inchiesta vuoi introdurre? Volevo sapere se da voi, dal pubblico e in particolare da parenti, quando cagate tirate l'acqua subito oppure preferite indugiare nell'attimo, voglio dire, e lasciare che la stanza si riempia e solo dopo un certo tempo che avete assaporato questo si procede, diciamo così, allo sciacquone. Mi sembra molto interessante come argomento, caro Parenzo, perché effettivamente il sottoscritto, prima di tirare subito lo sciacquone delle proprie feci, una puntatina come occhio, ma anche come odore, per capire che tipo di olezzo proviene dalla tazza riempita, no? Dalla o semipiena, eccetera, lo fa. Un'odoratina. Odoratina. Grande inchiesta. Oggi sarò qui a Monte Cesario. Se tutti avete coraggio, scendete a parlare con me. Diritti e doveri, 1000 euro. Vergogna! E io pago con la generazione dei vostri imputi. Titusi! E io pago con la generazione dei vostri imputi. Ho strappato l'Inps! Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. La Zanzara. In diretta sono. Mi state colmando d'affetto e io sono felice. Denunciami, Gremlis. Parenzo, lo sai con cosa ci siamo puliti io e il mio coinquilino stasera a tavola? Con la carta da culo e le bottiglie di plastica. Ciao Parenzo, ciao. Cause everyone thinks they're right, and nobody thinks that there just might be more than one road to a fine. Ciao Cruciani, sono qui con la mia, diciamo, partner che appartiene alla maggioranza silenziosa e mi rompe i coglioni che vuole che io mi cambi le mutande, no? Perché le ho su da ieri. Noi, da ieri, tra l'altro. Noi crucialiani vogliamo un calendario preciso di quando ci si può cambiare le mutande. Perché tutti i giorni, almeno una. No, no, è troppo. Volte. No, è troppo. No, al mattino e alla sera. Almeno vai pulito. Due volte al giorno le mutande, ti rendi conto? Una cosa impossibile, una cosa impossibile. Non se ne può più. E tra l'altro, cioè, appena iniziato ad ascoltare la Zanzara e già mi appartiene alla maggioranza silenziosa. Un casino. Fate qualcosa. Infatti, io sono parenziana. Ah, orribile. Caro Parenzo, interni di vita zanzaresca, interni di vita zanzaresca. Voglio... No, ma siamo tantissimi, siamo infatti la maggioranza silenziosa, gente che non usa i tovaglioli di carta per pulirsi a tavola, usa le brocche di vetro. Vedi, piano piano, ma il consenso c'è ed è quindi evidente. Avevano la carta igienica, quel che c'è di male a pulirsi quello con la carta schifo, igienica? Quello è uno schifo, se non assoluto. Hai, se non hai la possibilità, in quel momento ti sei dimenticato qualche cosa, non hai comprato gli Scottex. Lo Scottex i tovaglioli di carta, ma si usano quelli di stoffa. Ma che allora, stoffa? Io non ho capito. Io non uso i tovaglioli di stoffa. Tu credo. Non usi neanche i tovaglioli, neppure la tovaglia, ma perché tu poi ce l'hai con i rom. Questo è il fatto incredibile tuo. Non ti lavi, sei sporco, non ti cambi le mutande, la biancheria intima, non ti fai la doccia e poi parli dei rom. Non so però a che titolo ti appartiene cosa. Quella cultura. No, però voglio dirti una cosa: che l'ascoltatore di prima ha chiesto un consiglio sulla tempistica di cambiamento delle mutande. Caro, sì, a me, naturalmente esperto di questa materia, però io le cambio tutti i giorni e faccio la doccia una volta al giorno. Tutti i giorni le mutande, ma veramente stai dicendo ogni giorno ti cambi le mutande? Ma cioè, non è una usi ogni giorno una mutanda diversa? Un tu boxer diverso ogni giorno? Ogni giorno cambi un boxer diverso? Faccio la doccia tutte le mattine, pure la corte, ogni giorno cambio anche mutande, la corte, calzini, camicia, ovviamente anche ogni longoni giorno. Ho saputo, anche longoni una volta. Ma è gente normale, ma è evidente, solo quello sporcaccione di Mercù come te cambia raramente le mutande, ma lì sai, tanto ha poco anche da contenere all'interno di quelle mutande, quindi... No, il problema fondamentale è un altro, ragazzi, volete un consiglio chiaro, semplice? Alzatevi la mattina, prendete le mutande dove le avete messe, io per esempio le butto per terra le mutande. Ma perché sei così sporcaccione? No, perché? Io le trovo puntualmente, quelle del giorno prima le devo per terra, ogni tanto dormo... Perché? Se le avete addosso ve le togliete. Annusate. Oh, se c'è un leggerissimo odore di urina, di piscio, e chi se ne frega. Ma perché? Ma sei un vecchio che sgoccioli pure? Ma che no? Vabbè, ma è normale che tu non sgoccioli mai. Tu non sgoccioli mai. Ragazzi, però, è inelegante. La maggioranza silenziosa non sgocciola mai. Ma non dire cazzate che non sgoccioli mai. Ma normale. Stai scherzando? Ma non sgoccioli mai dalle mutande. Ma dai, sgocciolano. Mauro da Mantova sgocciola. Ma che schifo. Ma è una roba raccapricciante. Siete raccapriccianti. Ah, ragazzi, non dite cazzate. Sgocciolare è quasi obbligatorio. Ma sì, se hai problemi al sistema, certamente. Ti rende libero, ti rende uomo libero. Uomo libero. Invece di Arbeit macht ecco, frei. Vedi, no, adesso non facciamo. Mi scrive giustamente una nota, notissima giornalista italiana. Sì. Mandagli l'ASL a casa, ma anche i NAS. Ha no, ragione. Ragazzi, ma lo sgocciolamento questa nota, delle mutande. Notissima giornalista frega, italiana. Bene, scrive: mandagli a casa l'ASL e i NAS. Sì, però dia questa famosa giornalista italiana che sgocciolare ogni tanto dalle mutande e non cambiarsele. Ma non cambiarsele. È cosa giusta, ma nostro dovere, fonte di salvezza. uno statico probabilmente. Ma non è, la realtà è perché la vita, ti rappresenti così come sei invecchiato male, mamma mia. Volevo farvi sentire una ma frase. Se tu sei già così a 50 anni, sì, ma a 70 ti metteranno il catetere, a 60, ma chi che roba se ne frega, è? Cioè, a 70 anni, ma perché cazzo, ti sporchi a 70 così? 70 anni perché? Quasi sempre non si scopa più, ma che ci frega della vita a 70 anni? Quello che succede succede. A 70 anni molto probabilmente non si tromba più. Che senso ha campare? Va bene, ha ragione quello che diceva i vecchi. Io uno perché questa fissazione di arrivare fino a 120 anni? Uno deve morire prima. Io voglio morire prima, non voglio morire col catetere, con le sofferenze. Crepiamo prima. Se la gente crepasse a 70, 75, massimo 80, ovviamente crepare dolcemente, crepare in maniera tranquilla, calma, eccetera, la società andrebbe meglio, molto meglio, non dovrebbe più Guarda Berlusconi come è giovane, ma infatti giovanile, sta benissimo, lunga vita a tutti, forza. Una frase fondamentale dell'ex moglie di Buffon, la signora Seredova, che sulle corna si esprime in questo modo. Mi scrive peraltro una mia amica dermatologa, la dottoressa Finzi, qua voglio dare nome e cognome. Sì. La mutanda bagnata, dice, nel dettaglio, da sgocciolamento, irrita la punta del suo pisellino, scrive la dottoressa. Pazienza, chi se ne frega? Il pisello. È una dermatologa affermatissima. Ma vi fanno schifo? Ma io non ho capito queste cose. Il mondo non è... Mi scrivono solo medici o intellettuali. Sì, però, scusa. Voglio dire a questi medici intellettuali che scrivono a Parenzo. La dottoressa scrive: la mutanda bagnata da sgocciolamento irrita la punta del suo pisellino. Un'altra mi scrive invece, ragazzi, però non è che possiamo aprire il racconto della gente che scrive: il mio compagno ha 72 anni e trombiamo 3 volte a settimana. Si tromba? Sì, d'accordo, per carità, assolutamente. Però ci sono casi in cui la gente dopo 70 finisce chiuso lì. Allora, la questione è molto semplice. L'idea che avete voi della perfezione. E sti cazzi se lo sgocciolamento provoca irritazione. È normale, non c'è la perfezione, non esiste, è un mondo irreale quello della perfezione. Un po' di irritazione ogni tanto al pisello, va bene, va benissimo l'irritazione al pisello. Ma certo, è vita, sei assorbi meglio le malattie. Dai. Lavati, pulisciti, mamma. Allora, Alena Seredova e le corna, fondamentale questa cosa qua, grande filosofa italiana e direi anche interprete di una corrente di pensiero che vede nelle corna, che vede nel tradimento, che vede nella in un atto, diciamo, assolutamente normale, qualche cosa di non particolarmente drammatico, non particolarmente distruttivo, eccetera. Dice la Seredova, alla fine non è mai morto nessuno, si può anche stare meglio. Fondamentale, filosofo. Per essere una... Non è mai morto nessuno. Dice: per essere una cornuta fa il segno delle corna. Per essere cornuta non è mai morto nessuno. Allora, la nostra fantastica redazione ha recuperato un audio di pochi istanti fa durante la telecronaca. Parenzo si scatenerà adesso. Durante la telecronaca di Rai 2 della partita Fiorentina-Sampdoria, che è tuttora in corso. Eraldo Pecci, ex campione di calcio, oggi commentatore della Rai, sostiene questa cosa sui giocatori africani. Quello che ti volevo dire prima è che da quando sono giovane, da quando sono piccolo, che ci sono questi giocatori africani che hanno un sacco di possibilità, un sacco di caratteristiche positive, però spesso perdono le partite o non le vincono per distrazione, per sbagliano sempre delle cose, evidentemente è nel DNA la poca concentrazione, riescono a concentrarsi meno, magari hanno altre caratteristiche più profonde, ma sul livello di concentrazione o di attenzione hanno delle tare. Beh, amico mio! Incredibile! Amico mio! Nel DNA hanno problemi di attenzione, di concentrazione, ho capito bene. Sì, esatto, hai capito di concentrazione, bene. Nel DNA, c'è cioè sono attentional disorder, non è nel DNA. Nel DNA. Il signor Eraldo Pecci. Rai 2. Pagato dal servizio pubblico. Pagato Eraldo dal Pecci. Servizio pubblico. Eraldo Pecci. Questi africani, giovani africani, hanno doti tecniche atletiche straordinarie. E spesso, mi auguro che qualcuno ma faccia nel qualcosa. DNA... La mancanza di concentrazione. Ma ti auguri adesso, amico mio. Non è che ogni cosa può essere espulsioni, ammonizioni, multe, tribunali. Riduci tutto tribunale a una sanzione, a un ma intervento di qualcuno. Normale. Ma ti sembra normale? Ma sì, ma è certo, l'intervento di Daniele qualcuno. Da Roma, sicuro, ma... Daniele da Roma, dai, Daniele. Dimmi. Ciao Davide, ciao Giuseppe. Dimmi. Allora, tornate a farci ridere. Dimmi. Nel senso, sì, questa sì. trasmissione sembra sì, si sia sì. trasformata in radio caccia al fascista e caccia al nazi. Caccia al fascista, al nazi magari. Scusami, amico mio, sì, ho capito quello che dici. Fatemi parlare, dico questo dimmi, è fatta. Dimmi. Ieri è intervenuto quello di Forza Nuova che ha detto... quelli dell'Ampi stanno un piede nella fossa e l'altro sulla saponetta. Immediatamente Parenzo cercava motivo di querela alla saponetta. Beh, quasi che dovesse fare l'analogia con la saponetta con gli ebrei. Certo, quello diceva pace. Quello intendeva, però, Daniele, senti un attimo, ieri sera tu non capisci un cazzo perché hai sentito solamente 20 minuti. Ma non capisci un cazzo, tu scusa, eh. No, hai sentito 20, hai sentito. Non fa ridere, Giuseppe, e chi se ne frega se non ti fa ridere, se non ti fa ridere e se ti rompi i coglioni. Ma a me fa ridere. Cambia canale, non ci scassare la minchia. Io volevo dare anche un consiglio a Parenzo, se permetti. Poi dico questo e poi vi lascio. No, ma soprattutto leggiti un libro. Io ti voglio bene. Leggi un libro, leggi un libro. Prenditi sta cazzo vai al cinema. Vai al cinema. Ma vai a teatro, vai al cinema, vai a teatro, vai al cinema, Marilà, se non ti piace vai al cinema, vai a teatro, prendi per mano la tua fidanzata, falle una carezza, non ascoltarla più, non ascoltarla più la trasmissione, non è per te, ma non è per te. No, no, ma l'hai pronunciato malissimo, peraltro. Ha parlato in ebraico. Comunque, amico mio, ieri abbiamo fatto fatto 10 minuti con Febballo a parlare di minchie, tanto per dire, non è che abbiamo parlato solo dei fascisti. Ma fate anche ridere, è una trasmissione fortissima. E allora basta. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Si vede, si sente, Cruciani è puzzolente. Si vede, si sente, Parenzo è un impotente. Naturalmente. Ho un'idea geniale per un format. Voglio Forum Parenzo, la può vendere alla 7, potrebbe andare benissimo. Una trasmissione tipo forum con il giudice, la gente in studio, eccetera, eccetera, delle cause di Parenzo. Ne ha così tante che almeno un anno di trasmissione è fatta. Spettacolare. Come consiglio, Davide, questo buono, qua non è male come idea, consiglio. Ottima idea, sottoporremo alla ottima Barbara Palombelli che conduce Forum, certo, ottimo. No, ma che ovvio, c'entra? Ovvio. Lui diceva un'altra cosa. Cioè sì, lui vuole che io faccia un format io sulle mie cause, esatto, benissimo. Esatto. Ho capito perfettamente. Sì. Allora, ma ti pare normale? Ti pare normale, sentiamo, come leggo, se le cifre sono vere, eccetera, sentiamo, che noi dobbiamo spendere per iniziativa, per proposta, anzi, di una signora del PD che si chiama Quarta Pelle. Poi uno come cazzo fa a chiamarsi Quarta Pelle? Sì, guarda, amico tu come fai a chiamarti Cruciani? No, Mauro D'Amanto, come sa a chiamarsi? Uno che si chiama di cognome, no, quell'idiota. Non lo so, peraltro, aspetta, lo sanno qui in redazione, lo sanno come si chiama. Mauro? Mauro, non mi ricordo come, non mi ricordo come. Vabbè, comunque sti cazzi adesso. Ti pare, sì, normale, ti pare normale che una si chiami Quarta Pelle innanzitutto? Beh, quella lì è Quarta Pelle, la conosco benissimo, sì, un'ottima che... deputata, sì, del Partito PD. Democratico, una che si chiama Quarta Pelle, sì, va bene, d'accordo. Una che si chiama, bene, d'accordo. Una che si chiama Quarta Pelle. Lì a Quarta Pelle, ma si amica fa cambiare cognome, una si chiama Quarta Pelle, dai. Quarta Pelle cambi cognome a un certo punto. Ma Quarta Pelle, ma cosa vuol dire? Sì, ma non è Quarta Pelle. Vabbè, comunque per carità, va bene tutto. Se ti sta bene Quarta Pelle. È una deputata bravissima. Sì, ma molto sto preparata, discutendo, esperta di esteri. Sì, ma stona un po' Quarta Pelle. Uno, come ti chiami di cognome? Quarta Pelle. E tu come ti chiami? Cruciani. Beh, come quello Cruciani della Zanzara. Anonimo. Sì, purtroppo sì. Sai che c'è gente che va in giro, cambia il cognome. C'è gente in giro. Questo dovremmo quello farlo. Dei braccialetti, questo ad esempio, Cruciani. Ma quando mai? Ha deciso di cambiare. Sì, sì, che no. Non è lui poi, non è lui, non si non chiama. È lui, non ma è lui, ha deciso di cambiare, nome all'azienda. Capra, capra. Danneggiata. Azienda danneggiata nel corso degli anni. Danneggiata. Allora, perché ho citato la signora Quarta Pelle, ecco, di cui perché, francamente non sentivo il bisogno? Sì. Perché ha fatto una cosa straordinaria. Vuole che tu spostare, vuole sì. Aspetta, mi lo fai dire o no? Vuole no, spostare, non te lo faccio di più. Vuole spostare la sì. barca per cui già abbiamo parlato, sì, abbiamo già pagato 20 milioni di euro. Per quella. La... per recuperare la barca naufragata con i morti a Lampedusa, nel canale di Sicilia, del Mediterraneo. Sicilia, bravissimo. Affogarono 700 immigrati. Abbiamo già, esatto, per recuperarla e farlo diventare monumento, non si capisce di che cosa, abbiamo pagato 20 milioni di euro. Abbiamo questa signora Quarta Pelle, non so perché si chiami ancora Quarta Pelle, vuole portare e farne un monumento nazionale, certo, un'ottima idea. A Milano questa barca, spendendo mezzo milione di euro. Ma adesso mezzo milione di euro. La cifra non è assolutamente quella. Ma assolutamente. Ai poveracci, mezzo milione di euro. L'idea di far diventare quello il simbolo della tragedia del Mediterraneo mi pare un'ottima idea. Peraltro io porterei le scolaresche al cimitero di Lampedusa. Voi quei morti li dovete vedere prima di parlare in questo modo, li dovete vedere quei morti. Vabbè, comunque, quelle bare bianche, sì, le carcasse di quelle navi che sono ancora a Lampedusa, allora, nel famoso cimitero delle navi, le dovete vedere prima di parlare, così vi cambia forse prospettiva e il modo di parlare. Quindi mi sembra una buona idea questa della follia, della Quarta Pelle. Già 20 milioni più 500 mila, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Dai, su, di cosa stiamo parlando? Giovanni da Foggia. Sporco, zozzo, parenzo, beccati questo. No. Ecco l'altro. Ma che cosa? Innanzitutto beccati questo. Beccati questo culo. Ma cosa? È uno che si lava tutti i giorni, sei un Ma chi zozzone. È questo? Ma, che, ma cosa? Ah, io sono zozzone. Ma avete solo lavi io. Tutti i giorni vuol uno dire che si lava e sporco. Questo pelle, è il mondo al contrario, questa trasmissione ormai. Nella tua pelle esce fuori la zozzeria perché ti lavi tutti i giorni. Zozzo. Ma chi è questo esponente del Rotary? Di parlare a quale circolo del Rotary è iscritto, dire, lei, scusi? E di dire le fregnacci, i comunisti i comunisti che hai detto poco fa che sono vicino al popolo, che hanno dato da mangiare al popolo. E soltanto l'hanno portato alla fame. Ma perché vai lei a parlare beve? Con i paesi ma perché del beve? Dove sono stato io. Ma mi spieghi perché sporco, beve a quest'ora? Sporco comunista di ma merda. Cosa sporco? Ma perché lei deve bere così? Di merda, se non, perché se non si riduce così? Perché il beve? Fermatelo. Ecco il Duce. Mancava il Duce stavolta. Mancava. Ha fatto aprire tutti i cantoni. Cosa ha fatto il Duce? Tutti? Pieni di grano, la gente si è sfamata. Il grano, la gente si è sfamata. Il Duce che dava ai poveri. Toglieva quello che dava ai poveri. Il Duce di merda toglieva ai poveri e si prendevano. Lei perché non si è fatto curare? Perché ha interrotto quella terapia, lei perché ha interrotto quelle cure? Perché guardi com'è ridotto, perché ha interrotto le cure, perché ha interrotto la flebo? Le cure te le devi fare tu ti devi curare. Io vorrei dire delle cose pesanti guardandoti negli occhi, non sentiamo tramite il telefono e la radio. L'aspetto, l'aspetto. Adesso glielo puoi dire così, glielo puoi dire. 24, no, l'aspetto. No, così non glieli posso dire, non può, io gliele vorrei dire guardando. È troppo facile per lui parlare tramite il telefono e la radio. È troppo facile. Cose pesanti. Scusa, ma dove sei col tuo come sei col tuo camion? Le persone in bacio, no, tramite un microfono. Amico mio, noi il microfono se le devo mettere al culo, tieni. Ma chi sei? Bello. Senti che spinge sul clacson. Sei tu che spingi il clacson. No, le cose bisogna dirle in bacio se c'hai i coglioni sotto. Ma tenga le mani sul volante però. Ci vediamo guardandomi negli occhi. Ma tenga le mani sul volante però lei. Io non ti preoccupare che io ci metto il cazzo sul volante. No, adesso che c'entra Giovanni? Ma che raffinato, dove? Che non sei capace di fare nulla, non sei capace. Ma che cazzo dici? Ma tu non sei capace di fare tu nulla, Giovanni, dai, su. Sei anche sono sicuro che sei impotente. Sei impotente. Sei certamente impotente. Non hai detto che la tua Umbria deve è come il Molise anche della l'Umbria, deve anche l'Umbria, anche l'Umbria, anche l'Umbria, se vuoi te lo dico come regione, mi sembra un po' piccolo. Ma non l'hai detto quella volta, hai citato solo il Molise e la Basilicata. Giovanni, non ho capito. No, dove ti trovi in questo momento col tuo camion? Sì, ecco, lo dico. Mi trovo a Pescara. A Pescara. Sto andando a Montecatini, a Pescara. A Montecatini. Allora, Montecatini, verso che ora pensi di arrivare che le mandiamo una volante della polizia e una ambulanza ben attrezzata? Manda la volante della polizia, scimunito. Sì. Soprattutto una ambulanza, ma perché direi. Zozzo sporco si lava? Scusa, uno che si lava tutte le mattine, Zozzo è sporco. Io mi cambio le mutande un po' al contrario, una volta a settimana. Però. e mi faccio la doccia due volte l'anno. Ma lei infatti è una persona schifosa. Perché io mi ritengo di essere pulito. Ma lei è una persona schifosa, infatti. E alle volte cacco e pisce nella mutanda e me la tengo. Ma che meraviglia. Ma che bello. Che meraviglia, perché sarà contenta la sua elegante signora. Sarà contenta la sua elegante signora, evidentemente. Non ti preoccupare, la mia signora è contentissima. Ma sei fascista tu? Sì, io fascista, beh, mi pare di sì. Fascista. Mi pare abbastanza. Dunque, se c'è qualcosa che non va ad essere fascista, beh, sa, abbastanza. Beh, sì, è un reato essere un comunista di merda come te. No, quello no. Quello però, no, scusa, perché i comunisti hanno firmato la Costituzione? Ma non c'è bisogno che glielo spieghi. Perché? Perché, caro Giovanni, sì, hai telefonato così? Perché, caro involuto? Perché non dici così? Perché, caro involuto, lei ha deciso tu, di telefonare? A te ti manca l'indulgenza, scimunita. Come l'indulgenza? Scimunito, a te ti manca l'indulgenza. Sai che no, cosa vuol dire l'indulgenza? Semmai, non io l'indulgenza. Io che ho fatto la terza elementare. Indulgenza plenaria. So. Cos'è, ecco, l'indulgenza? Tu che hai studiato del cazzo. Cos'è l'indulgenza? Ma cos'è l'indulgenza? Che cos'è l'indulgenza? L'indulgenza plenaria. Che cos'è l'indulgenza? Non ho capito. Tu c'hai il cervello di un barattolo vuoto. Ma cos'è? Nel tuo cervello non c'è niente, c'è un barattolo vuoto. Senta, caro involuto, perché lei telefona caro a questa radio? Caro involuto, caro involuto, non si capisce perché ha telefonato. Amico però. Involuto, perché hai telefonato? Questo Simonino ha detto che i comunisti sono vicini al popolo, che danno da mangiare al popolo. Ma no, non ha detto questo, esattamente. No, non ha detto questo. Non hai capito una mazza, come al solito. Però purtroppo Giovanni, lei quelle due sinapsi che ha nel cervello. Il mio collega di Roma si scollegano. Chi è il tuo collega di Roma? Sto vicino a Giovanni, di Reggio Calabria. Ma che bella compagnia! Ma che bella compagnia! Cerca di questa al culo. Sì. Ecco, suona pure. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo! Che spettacolo! Che gentaglia, che gentaglia. Allora, uno ha scritto: siete due bestie. La saponetta non è rivolta agli ebrei. Un piede è già dentro, l'altro scivola sulla saponetta e sei morto. Siete due coglioni, scrive uno. Ma. Possiamo avere dei dubbi, siccome quel tizio, ecco, come dire, esatto, era vagamente, esatto, simpatizzante, ma... della destra, esatto, estrema. Possiamo, esatto, avere dei dubbi quando uno pronuncia la parola, ecco, saponetta? Appunto, o l'hai, no, detto tu, l'hai detto tu, appunto. Oh. Allora, ragazzi, io chiamerei a questo punto il signor Sicignano, il mio amico, sì, dottor Sicignano. Quello che ha ucciso, sì, il ladro, bene, no? Sì, due anni fa. Ed è stato, mi pare, assolto in base a una legge che si chiama Cassino. Sì, sì, glielo dico, dirai come? In faccia, deve avere, certo, il coraggio di dirglielo in faccia, ma Sicignano. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Anzi, due anni di processo, ha dovuto pagare, sì, un avvocato, assolto, due anni poi di processo. Assolto. Poi è stato assolto, certo. Con la è stato legge assolto vigente. Per fortuna. Con la legge vigente, voluta dal centrodestra, Berlusconi. Toni e Lega, figlio legge Castelli. Chiamiamo il mio amico Sicignano, dai. Sì, pronto. Francesco, amico mio, come stai? Sono Cruciani. Ciao caro, come stai? Beh, amico, un abbraccio fortissimo intanto, Francesco. Amici, ce l'abbiamo, amici, fatta, anche, grazie, se sono passati due anni, amico mio. Grazie due alla legge sul, grazie alla legge, sì, esistente, è stato scarcerato. Io è stato... ogni tanto ti penso, parlavo di te proprio stamattina col tassista, vabbè, dimmi tutto. Senti, Parenzo sostiene che grazie, no, Parenzo è qua, alla legge, Parenzo è qui, alla legge esistente tu ce l'hai fatta. Dunque. E certo, ha sparato e ucciso secondo la legge, termine peraltro terribile, però ha ucciso secondo la legge, perché ha ucciso secondo la legge, e quindi è innocente grazie alla legge sulla legittima difesa. Che vuoi dire, in tutti, sì, questi, Francesco, in questi due anni si è scatenato un cancan politico, per cui lui è diventato dire, simbolo di questa roba. Fallo parlare un attimo, no? Parenzio, innanzitutto lo Stato a me non mi ha difeso, mi sono difeso io da solo. Quanti soldi hai mollato? Quanti soldi hai mollato? Secondo le spese le ho anticipate io. Terzo, la legge che c'è, dato che lei è seduto lì su una sedia e non ha provato questa esperienza, della non Lega, va bene vota... ancora perché va modificata. È una legge della Lega. Perché è ci della potrebbero... Lega. È una legge della Lega. Ma chi se ne frega? È della Lega, io non discuto, e meno male che c'è questa legge. Il problema è che tu sei diventato il simbolo di una parte politica, cioè della destra, della Lega e di Forza, no, Italia, che ti portava in giro, vittime, come la Madonna Pellegrina, dicendo che bisogna sparare. A differenza tua che sei lì sulla sedia a blaterare, io invece l'ho vissuta l'esperienza. Allora, tutte le notti che io mi sveglio, Questa situazione qua, metti caso che io avrei sparato due colpi, oppure lui era girato di spalle perché io non ho visto un benedetto cazzo, come si sarebbe volta questa cosa? Allora la legittima difesa nella proprietà privata è sacrosanta, mettiti in quella testa vuota. Dunque si può dire che tu ti sei salvato sostanzialmente per culo, perché se avessi sparato due colpi, perché magari in quel momento eri un po' più esaltato, perché poi magari il secondo te lo danno come volontario, capito, come vilipendio di cadavere, che ne so io. Oppure che ne so, quello la legge non è chiara, capisci? Poi, a me è andata così, ma qualche altro è andata male. Senti, ma come vivi adesso? Riesci, dopo due anni, riesci a dormire la notte ancora o no? Ma no, ma che cazzo dormi? Io tutte le notti due o tre volte mi ascio, prima perché ho un po' di prosa, secondo, quando ti assi devi per forza guardare fuori, vedere. Ho messo 16 lampadine intorno alla casa io. No, ma questo mi dispiace, sicuramente vive un dramma da questo punto di vista. È un paese serio questo qua. Tra l'altro, Francesco, e scusa. Continuiamo a metterle in feriate, ma perché negli altri paesi dei feriati non ci sono? Vai in Svizzera, non c'è un'inferiata, vai a Malta, non c'è un'inferiata, vai in Austria, non c'è un'inferiata, ma che cazzo stiamo dicendo? No, scusami un attimo, ma ti potrebbe dire il signore, come si chiama quello là, Librandi, che bisogna spendere per fare gli antifurti in giro per l'Italia, cioè per mettere le telecamere, le cose, signor Librandi. Librandi, quando parla dovrebbe collegare la bocca al cervello, perché il problema non è che io devo metterla in feriate, è lo Stato che deve fare delle regole certe e chiare e creare il deterrente che non avvengano i reati. Comunque, diciamo la verità, Francesco, diciamo la verità. Dentro casa uno può fare quello che vuole. Già, ma no, quello che vuole, quello sì, che dice la legge. Quello che vuole, però ascoltami, Cruciani, quello che vuole, no, è relativo. Perché se a me fosse entrato in casa a mezzogiorno, lo vedo che è disarmato e mica gli sparo, gli dico vai fuori dei coglioni, se ne va. E se entra di notte? Ma quando tu ti svegli di notte all'1:15 e te lo trovi a 2:30 e ti vuoi saltare addosso, digli a Parenzo di provare l'esperienza, così goda anche lui. Provala, che cazzo. David, provala. Ma senti, ma la pistola te l'hanno ridata già? Ma l'ordinanza prevede che mi venga restituita. Dunque, fra pochi giorni avrai la pistola, questa è la realtà. Io sabato mattina vado al comando dei carabinieri a ritirarmela. Sabato mattina, ottimo. Dove la metterai dopo? Non si preoccupi, le telecamere dalla vostra parte la seguiranno in diretta, mentre ritira la sua pistola. Ma che c'hai contro le pistole? Ma non capisco. No, ma voglio dire, ma tu la pistola, Parenzo, tu la pistola. State costruendo, scusami, state costruendo un cancan divertentissimo. Ma non è solo la pistola, perché ha la P maiuscola, porca miseria. Ma sono d'accordo con te, il signor Sicignano. Fosse stata una persona qualunque, io ovviamente è una persona qualunque. Uno, no, perché è diventato un politico. Ma no, ma che politico, ma mamma mia, uno, sono felice, Parenzo, che l'abbiano assolto. Guarda che perché l'olio dentro l'acqua non si mischia, è inutile che la meni. Scusami. Allora, ascoltami una cosa. Io fin dall'inizio sono sempre stato sereno e tranquillo, perché la legge me l'ero letta per benino, i fatti li conoscevo, perché io li ho vissuti, a prescindere dalle cazzate che avete sparato tutti quanti in quel periodo, assassino, sceriffo, di qua di là. No, tu no, anzi, tu sei stato l'unico, uno dei pochi che mi ha difeso. Meno male. Hai capito il problema qual è? Assolutamente. Allora, la realtà è questa, sono stato solo uno dei pochi a difenderlo. Ma quale solo? Ma cosa dici solo? Beh, praticamente... Che c'era ogni giorno una trasmissione televisiva che parlava di questo. No, all'epoca no, all'epoca no. Ma cosa dici? Stasera sono dalla vostra parte. Domani. Stasera dalla vostra parte. Ah, ecco, beh, per forza. Domani sera dove è, caro? Domani sera quinta colonna. Ma è la stessa oggi cosa. Ero la 7. Sì, benissimo. Cosa c'è di nuovo? Aria che tira. Sì. Aria che tira. Almeno l'aria tira, almeno quella. Sì. Che di cosa parlerete? No, ma lui dice oggi, così. Domani. Lui dice così di perché minche imbottite. Lui dice così. Lui dice così perché l'aria che tira, perché non tira più un cazzo da quando c'ha la prostata. Certo. Ci vuole tanto a capirlo. Perché non te tira più, Francesco, questa è la realtà. Ci arriverai anche tu, caro Cruciani. No, ma come cazzo è possibile? Eppure mica sei anziano. Cioè, tu dici, ma sei così fissato? Portato... è possibile. Sarà stato l'eccessivo utilizzo. No, beh, questa è stata la prostata, dai, è stata la prostata. Io la cosa che voglio capire è un'altra. Cruciani, comunque, bravo, sei la pistola, sei no? Simpatico. La pistola che ti restituiranno. Ti vuole bene, vi vuole bene. Però. Io assolutamente gli voglio bene, assolutamente, a Francesco. Tu devi capire una cosa, no? Sì, dimmi, che Siciliano, qui caro, non è, c'è niente da festeggiare. Niente qui ci da sono in ballo due tragedie serie, perché la famiglia male, di là ha perso un ragazzo di 22 meno anni. Meno male, e io di meno qua, male. Vita, io, mia moglie e mio figlio, me lo porto dietro a vita, e voi non capite una massa di quello che si prova tutte le notti, nel cervello, tu continui a pensare sta cosa perché ti alzi. È questo che voi non avete in quel cervello. Posso dire, a voi vi piace soltanto sparare minchiate. Posso dire una cosa. Però, io scusa. Fossi in te, di quello che è morto me ne fotterei. Io vado oltre Sicignano, sono addirittura oltre Sicignano. Però vedi Cruciani, questa cosa qui bastava che la politica prendeva per l'orecchio e l'espulso e lo accompagnava in Albania, lo lasciava. Questa tragedia non c'era. Senti, allora, Francesco, la colpa non è di Sicignano che si è difeso, è dello Stato, certo. Oh, è questo, perché questo Stato qua, l'illegalità ormai è diventata di uso consuetudine. Senti, un'ultima perché cosa, Francesco. Salire su un pullman, su un pullman senza biglietto, tu non ci devi salire, cazzo, perché negli altri paesi non ti fanno salire, ti fanno portare via. Qui invece tutti quanti fanno quello che cazzo vogliono e io mi sono rotto i coglioni di questo sistema. La pistola, se capiterà di nuovo, la userai, sì. Ma allora, ascoltami, non è che io voglio usare la pistola. Il problema è che io in casa mia mi difenderò sempre. Dunque tu, se ti capita un'altra volta... Con qualsiasi mezzo. Anche con la pistola che ti ridaranno. Con tutto quello che trovo in casa. Allora, e la seconda cosa... Se tu invece, se qualcheduno che invece sostiene il contrario, si vuole fare violentare la moglie, far ammazzare la figlia, qua là... Ma chi è che vuole? Faccia quello che secondo... vuole. Lui ha la libertà di non prenderla, io ho la libertà di tenerla, punto. Ma chi è che secondo Senti, seconda, lei vuole seconda questo? Cosa, no. Le candidature pronta, mi sembra, no? Ma che ne so, io adesso vedremo, perché tutti parlano. Però ma... tu ti vuoi candidare, vuoi andare in Parlamento, sì. E se mi candidano, magari mi candido, che ne so io. Ma la Lega o no? No, che Lega, per adesso... Forza Italia. Per adesso sono... No, ma che Forza Italia? Me l'ha messo nel culo, vado più un'altra volta, dai. Ma chi è? Fratelli d'Italia, ottimo. No, adesso sono Fratelli, sono con Terra Nostra, che è un movimento della Giorgia Meloni che appunto, Fratelli d'Italia. Dunque, se ti candidi con Fratelli d'Italia, questa è la realtà. Certo, è ovvio. Vabbè, certo, ciao, è ovvio. Ciao, benissimo. Ciao. Saluti. Ciao, abbracci, forza. Salutami l'amico di Telese, perché Telese ha detto in trasmissione che l'Italia si stava sicignanizzando, pensati le cazzate che uno spara. Ma magari. Ha inventato neologismo. Magari, ma bravissimo, va bene, va benissimo. Bravissimo. Ciao Cruciani, ciao Telese. La Zanzara. Buonasera, questa settimana ho sentito l'intervista di Gianfranco Semproni alla Zanzara e Parenzo. È stato un vero maleducato e fatto bene a rispondere. Sono andato a fanculo, sono mezzo di stronzo, chi cazzo li conosce? Ma frega di cazzate, che magari se l'hai detto, se ne porre una mezza orecchia, che cazzo c'entri tu? Che mi chiama a fare? Pure io molti rispetto perché sei di Pescara, a Zanzara, la radio, ma a me della radio non me ne frega niente. Tra parenti, però se ci sta uno stronzo come quello che interviene facendo le battutine, capite, alla rete, non ho capito che volesse fare, cioè se le tristi te tenesse a quadra, facessi una faccia come un pallone. Sparate gente, sparate dai balconi, dalle finestre, dalle terrazze, dai tetti, dalle cantine, dai tombini, dagli angoli delle strade, sparate, pistole, fucili, bombe a mano, medaglia al valore a quello lì di calcinato che ha sparato, medaglia al valore, bisogna farlo generale delle forze armate e regalargli un carro armato, porca puttana! Senza controllo sanitario! Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. E cancella le mie foto. Adesso questo dipende che foto ma sono. Ma scusami, e con questo volevo capire, ma chi è questa qua che vuole cancellare? A chi si rivolge? Che alle volte perdo il filo dei pazzi che gli audio dei pazzi. Chi è questa qua? È cancellare. Capito? Ma chi è questa qua esattamente? Cioè a cosa si riferisce? Cancella le mie foto? A chi parla? Chi è? Ma sono delle voci che mi mandano. Ma quale voci? Ma cosa vuol dire cancella le mie foto? A chi lo dice? Ma sono delle conversazioni private tra gente comune che vengono ogni tanto mandate, vere o false che siano, non ha importanza, vengono mandate via internet a vari siti e poi successivamente a varie chat, tra cui la nostra, caro Parenzo. Dovresti passare una giornata intera a sentire i messaggi del nostro numero WhatsApp. Una giornata fai la intera. So che tu lo fai anche molto, la notte. Sì, allora, ragazzi, poi le chiacchiere stanno anche a zero, no? Sì. Perché quando il signor Berlusconi oggi, durante la presentazione del libro di Vespa, dice sì, Mussolini forse non era proprio un dittatore. Beh, un gigante. Ah, lui un gigante, guarda che c'è, no, veramente la faccia come il culo. In termini di battute che aveva già detto un'altra volta, no? Questa, ma ho cosa, capito, ma adesso tu attacchi quindi tutti i fascisti. Berlusconi dice che forse non era proprio un dittatore, siccome gli devi leccare il culo non te lo mangi, ma perché sai, è Berlusconi, no, ma non mi interessa niente di Berlusconi, l'ho attaccato mille volte, ma figuriamoci cosa me ne frega a me di Berlusconi. Poi frega, ha detto, era una me ne frega niente a me di Berlusconi, me ne frega niente, poi sono direttore di Libero, non me ne frega niente, vado al baretto Baglioni a mangiare, non me ne frega niente. Questo potrebbe essere una cosa buona. Quando tu sei in difficoltà su qualche cosa, ti rifugi sì, dentro Feltri, sì, e ti rifugi, esatto, nel corpo, sì, di Feltri. Ma me ne frega niente, ma cosa è Berlusconi? Ma non me ne frega niente. Cos'è? Parliamo dei negri che stuprano le nostre donne delle nostre città. Anche io oggi sto a Bergamo e non me ne frega niente. A Bergamo Alta ci sono due negri, la notte li hanno obbligati giustamente a girare per la città con dei cattari fraggenti, ma sono dei negri, ma non me ne frega niente a me. È un po' più lento il signor Feltri, però me ne frega niente. Allora è ricomparsa quella apparenza dell'Ips. Che poi quando, aspetta, una donna è una troia, va anche detto. Adesso come lo dite voi, non lo so, politicamente corretto in poli di dire prostituta. Io le chiamo semplicemente troie. Poi mi risulta che, vabbè, che le donne votano tutte Partito Democratico. Vabbè, questo no, abbiamo fatto uso. Ma delle tante troie, incredibile, incredibile. Davide, ci sei o no? Sala, peraltro, il sindaco di Milano del PD, mi pare, sì, è un noto omosessuale, ma non mi pare di offenderlo in questo modo. Ovviamente il contrario. Ha fatto addirittura un parco del sesso che si chiama Expo, di froci di tutta Europa che dovevano venire lì. Come si chiama quella roba lì? L'Expo non era un parco del sesso. Cos'era? Un branco di un territorio battuto da froci. Io adesso sto a Bergamo, non sono mai andato, però mi risulta che Expo vuol dire esporre froci, quella roba lì era, cos'era? Allora, sì, è ritornata, è rispuntata quella dell'Inps. Parezzo, preparati. No, sì, no, non ce la posso fare. Ma su quale tema? È rispuntata ora quella dell'Inps. Su quale tema? Banca Etruria. Banca Etruria. Ma cosa ne sa lei di Banca Etruria? Cosa ne sa? Senti, senti, ti prego, senti. Banca Italia non si sa dove sta, un pubblico ministero che non si capisce se è lì proprio perché ci deve stare, che fa il pubblico ministero, o perché deve in qualche modo giustificare il padre della Boschi. Qua non si capisce, dobbiamo avere un pochino più chiarezza. Eccoci. Di che sta parlando? Meglio avere più chiarezza, sì, meglio forse, meglio. Chi ha truffato queste persone? Ora, dopo 2 anni, dovrebbero stare in galera, perché in un altro paese europeo funziona così, sì, in carcere. C'è un processo poi, sì, c'è. And I touched your face. È una vergogna, siete una massa di fitusi, ma governassente, un popolo di babbi. Noi dobbiamo andare a Montecitorio senza colore politico, non che vi schierate e andate solo quando vi chiamano, il vostro leader, che può essere chiunque leader, andate lì. Chiunque leader. Chiunque leader, andate lì. Ma cosa, questa è in guerra con l'italiano, però. Però loro vanno poi con i soldi che e noi paghiamo, noi paghiamo i loro stipendi, sì, li vediamo pure alla Scala, Boschi, sì, con tutti i soldi che c'hai. Fatti un po' di scuola di metodologia comportamentale, un pochino di buon donne. Ha parlato la principessa Rania di Giordania, ha parlato. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani. Ho strappato l'Inps oggi. Ho strappato l'Inps. Non lo sopporto queste io cose. Te lo metto a posto. Io no. Ti giuro, mi manda i matti quella lame. Mi manda i matti, guarda. Lo metto apposta fare a nome di tutti gli italiani. No, mi dà proprio, mi crea una dermatite, proprio male sto fisicamente, guarda. Allora, Asi Argento che dice denunciare, non so, no, sì, non lo so ragazzi, basta. Questa Sargento mi ha rotto veramente i coglioni. Amica mia, hai fatto un po' di cinema, grazie anche a quello che dici che ti ha stuprato. Hai fatto un po' di cinema, ci sei andato a braccetto anche dopo. Cioè, non so se ci hai scopato, no, non mi interessa, dopo, successivamente. Basta con questa storia della vita cambiata, distrutta, eccetera. Stai facendo una grande operazione pubblicità. Da un certo punto di vista è anche geniale questa roba. Non mi pare che abbia un dei grande film rilancio, per... un grande rilancio dell'immagine. Era nel dimenticatoio praticamente. Ma non lo dico, ma lo dico con franchezza, lo dico con serenità. Non ha senso però denunciare. Glielo daresti come consiglio? Andate a fare una denuncia in tribunale? In Italia? In tribunale, sì. In tribunale. Ma cosa? Non lo so. Guarda cosa è successo alle ragazze di Firenze. Sì. No. Quello beh, però scusa. Diciamo è già più complicato. Ma io non lo so dove devono andare. Io non so cosa consigliare in Italia a queste ragazze. Cioè praticamente non sa se consigliare la denuncia o no. Guarda che è successo a quella di Firenze. Che è successo? Hanno fatto la denuncia in tribunale. Le americane, lei dice. Sì, le americane dei carabinieri. Hanno fatto la denuncia, adesso è in corso la cosa, stanno inchiappettando i due carabinieri. Beh, non mi pare che hanno fatto una cosa così incredibile. Hanno denunciato un presunto stupro, uno stupro. Quello che è. Una roba incredibile, dai. Cioè, di fronte a una domanda, tu consigli a una donna di denunciare? Boh, non lo so, sì, forse ma sì. Qui quando... ha sbagliato clamorosamente. Ma sì. Non ha sbagliato! Lasciami perdere, non mi far dire, dai, su. Ah. Davide da Vicenza, dai Davide, anzi Alessandro sì. Da Milano, ah, Davide aspetta un attimo, Alessandro vai. Alessandro. Ciao, dimmi, ciao dimmi, a caro, tutti. Io vorrei tornare un attimo sulla storia, della questione sempre dei migranti. Io dimmi. Ho vissuto da vicino questa cosa perché comunque ho fatto volontariato diverse volte in Africa sì. E anche in altre parti. Però quello che mi sta sul cazzo del governo italiano è che manca una progettualità per queste persone. Noi li stiamo tirando qui, non abbiamo nessun progetto di vita per loro. Non li stiamo portando qui. Bravo, come questi, no? Le abbiamo, non li stiamo noi portando qui. Vengono anche, perché scappano da guerre e fame. Ma quale scappano ancora con sta cazzata? Vita per queste persone. Non gli stiamo dando un futuro, li rendiamo schiavi, forse per cosa? Per una manovalanza a basso reddito per loro, perché noi italiani costiamo troppo e basta. E te lo dice uno, mi sembra di capire, che ha fatto volontariato, cioè non è che te lo dice il tuo amico Fiore o altri, te lo dice uno, Alessandro da Milano, che dice che ha fatto anche volontariati in Africa. Cioè, non... Ma è giusto aiutarli, attenzione, non sto dicendo questo, assolutamente giusto, ragazzi, perché il viaggio della speranza non è dal mare attraversare il mare. Viaggio della speranza parte dal centro dell'Africa attraversando deserti, morendo di fame e di sete. Attenzione, l'altra cosa però, i miserabili che stanno nel nostro governo dovrebbero avere un progetto per queste persone, aiutarle nel loro paese, ma non a star lì facendo evolvere il paese, facendo crescere economicamente. Magari certo, anche con un ritorno economico. Ciao Alessandro, ciao Fabio da Napoli. Fabio, intanto Freud sosteneva, mi segnalano che tutti amano l'odore dei propri peti. Questo è fondamentale. Ciao. Fabio, vai. Ciao Veppe. No, chi c'è? Davide, scusami. Chi c'è? Davide o Fabio? Non ho capito. Chi è? Io sono Fabio, non lo so. Fabio, Davide, richiamatelo. Dai, Fabio, dimmi. Veppe, senti qua. Allora, prima cosa, mi devo ancora riprendere dalla commozione dell'intervento di quello che ha parlato prima. Comunque, lasciamo perdere. Volevo parlare di amore. Di amore, sì. Cioè, di puttane. Sì, di puttane, per carità, siamo qua. Ma tu sei quello della Bulgaria? Sei quello della Bulgaria, bravo, tu? Bravo, bravo. Amico mio, ma sei tornato in Bulgaria? No, ma che? Ma ancora meglio. Cioè? Visto che mi sono separato, sono andato a vivere in un posto dove è pieno zeppo di nigeriane. Mi sembra di capire, caro Fabio, che la tua separazione fosse nell'aria, Parenzo. Mi sembra di capire. Sembra anche a me, amico. Dopo avere, come dire, mi sembra un atto dovuto, direi, dovuto. Urbi et orbi. E spero che questa trasmissione abbia contribuito allo sculacciamento di tua moglie. Ma che sculacciamento? Ma quando mai? Cioè, è stata dolorosa. No, lasciala stare a quella povera femmina. A proposito, dimmi. A proposito delle mutande, tu te cagna una al giorno perché te lavano. Non ho capito. Comunque, lasciamo perdere. Non ho capito, scusa. No, perché te le lavano la camicia, certo. Te la lavano. E ci mancherebbe altro, certo. Me la lavano, me la stirano. Ma devo dire la verità, amico mio, io non ho mai lavato una mia mutanda in vita mia. Sì, forse qualche volta, ma insomma, me le lavano anche a me le mutande. Giusto, perché io mi trovo da solo, mi va. Pure io. Beh, guardi, esistono delle lavatrici comodissime che anche asciugano. Lei le mette dentro, mette il programma a cotone. Facci raccontare la storia. No, fammi raccontare la storia. Dai. Tra i 40 e i 60 gradi per il bianco. Perché io devo sparare. Fammi parlare. Allora, voglio raccontare questa storia. Devo sfatare un mito. Qual è il mito? Le nigeriane sfruttate. Cioè tu abiti, sei andato abitare in una zona, sei andato ad abitare in una zona piena di nigeriane. Sì. Ma dopo la separazione, no? Proprio dopo... a due passi dallo stadio. E allora? E allora, praticamente ce n'è una che batte alla fermata del bus di fronte al mio palazzo. Sì. Praticamente. No, beh, aspetta, però Fabio, cerca di parlare bene perché l'argomento è molto interessante. Cioè, le tue frequentazioni con le nigeriane dalle parti del San Paolo di Napoli. Però, amico mio, devi pure. Cioè, devi pure... Io senti, non mi senti bene. No, ti sento adesso, vai, dimmi. Ok, purtroppo perfetto. Sì. Allora, siamo talmente entrati in confidenza che quando vuole lei busta e sale. Ah, la nigeriana, la puttana nigeriana. Sì, e poi mercanteggiate. Ma scusa, ma come avviene questo mercanteggiamento? Soprattutto quanto paghi per cosa? Ma guarda, se chiedi alle altre, vogliono almeno 100 euro per salire a casa. Invece questa? Io invece, questa 20-25. Cioè, è riuscito a fare un pacchetto famiglia, ma non sostanzialmente. È vero, ma non è vero che si prende solo 20-30 per lui, che sei, Alain Delon, chi sei? No, cioè... no, ma che cazzo dice? No, perché io la tratto bene e poi no, però mi ha fatto mia storia, se no non riesco. Vai, dimmi cosa... però, amico mio, non è che ci abbiamo qua 20-50 minuti. Lo so, e tu mi dilunghi e io non riesco a terminare. Allora, praticamente, questa è la regina dei pregherò. È una ti regina? Ti pregherò col son? Dei pompini. Sì, vabbè, allora vabbè, d'accordo, quello okay. Fa la puttana, d'altra parte non è che fa la filosofa, insomma. No, ma ci sono due tipi di puttane, io ne ho frequentate da... Quelle che quando sei arrivato staccano tutto, staccano la spina. E invece? Bella e questa invece metafora. Questa sì. Ha continuato come una forsennata. Proprio per darti il vero amore. Questo è buono, questo è buono. Questa c'è la descrizione. Lei non è semplicemente uno sporcaccione, è una persona proprio zozza, sporca. Sporca nell'anima. Ma questo è l'amore, Parenzo, tu non capisci. Cioè, l'amore cazzo. È pagare una ragazza sfruttata. Ma sei affezionata, colore. Ti sei affezionata a questa qua? Ma che sei affezionata? No, quella è disperata, no? Come fai a essere affezionata a sto miserabile qua? Come tutta la vita, io do e tu dai, punto e basta. Poi lei mi ha detto, faccio il turno, la domenica non lavoro perché me la prendo di riposo. Allora? Posso fare tre, ne posso fare sei, non cambia niente. La domenica vado a ballare, vuoi venire a ballare? Io purtroppo non so. Scusa, se però, ti ricordi, facciamo, agli occhi. Facciamo una cosa, Fabio, la tua vita è molto interessante, questo spaccato è interessantissimo, eccetera. Però, no, molto interessante. Però, amico mio, possiamo fare una cosa? La prossima volta, per dare anche un tocco di verità a questa storia. Ecco, appunto. Portaci questa nigeriana ai nostri microfoni. O no? Ma quello attacca quando staccano i negozi. Vabbè, cioè, amico mio. Alle 20? Ma che faccio? La puttana quando sta il negozio aperto? Ma che dici? Vabbè, ho capito, amico mio. Ma non è che deve essere il collegamento mentre fa le cose. Cioè, chiamala in un'altra occasione in cui non lavora. Dai, fermo là. Fermo. Pronto. Prima si parlava dei Mussolini. Dai, andiamo, papà. Pronto. Prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno. Non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia e credono di parlare. Parlano come tanti cretini. Dai, andiamo da qua. Parlano come tanti cretini. Dai, andiamo da qua. Non vedete che non è il professore? Non lo vedete che è un povero handicappato? Venga, caro, venga. La porta al suo reparto. Venga. Adesso venga in camera, ecco. Parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Via! La Zanzara. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Sei anche un ebreo. Rispettate i camionisti, perché grazie ai camionisti gira l'economia. Se ci fermiamo noi, si ferma tutto il mondo. Quell'altro che ce l'ha con i camionisti, di. La Zanzara. Te, ti è mai successo che quando vai in bagno a defecare, per esempio nei bagni della Price Waterhouse, e centrando il buco ci sia un'onda anomala che contestualmente ti faccia anche il bidet? Come risolvi questo problema? Metti uno strato di carta igienica per evitare che ci sia questo rimbalzo, o approfitti della situazione per fare anche il bidet? Allora, caro David, è arrivata la notizia della condanna di Mirko. Io ovviamente metto la carta igienica per rispondere al nostro ascoltatore. Cioè, tu metti la carta igienica per fare da filtro? Cioè, per fare assolutamente da... sì, per fare da, lo chiamo dopo, da cuscinetto, in modo da evitare, a parte che comunque non mi capita praticamente ogni tanto mai, lo schizzo col bidet l'hai fatto o no? Siamo educati, no, mai. Lo schizzo col bidet non lo fa nessuno, mai. Però è piacevole, mai, lo, mai, schi- è piacevole lo schizzo che arriva di acqua col plof. A voi involuti sì, a voi involuti piace, agli zozzoni piace. Ragazzi, gli zozzoni è arrivata la notizia della condanna, 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario di Mirko Franzoni, un signore di 33 anni che nel dicembre del 2013 a Serle, provincia di Brescia, ha ucciso un ladro albanese o romeno, anzi no, albanese, che aveva rubato a casa del fratello. C'era stata una richiesta di 16 anni di carcere per omicidio volontario e il PM, anzi no, la, diciamo il giudice primo grado sostiene la legge vieta il furto ma anche di uccidere. Eh certo, è un'esecuzione era quella. Se i carabinieri fossero stati chiamati oggi non saremmo qui a discutere di omicidio volontario ma di un semplice processo per furto, aveva detto il PM. Esatto. Il sottofondo di questa vicenda è chiaro: la vittima è un ladro e chi ha sparato è un bravo ragazzo. La legge vieta il furto ma anche di uccidere. Franzoni si è sempre proclamato innocente, ricordiamo che aveva un po' rincorso il ladro per le vie del paese. No, no, no, un po'. La cosa determinante è esattamente questa. Una vera e propria esecuzione, ricordo perfettamente. Esecuzione. Comunque, ricordo perfettamente quel caso, una esecuzione, l'ha rincorso per strada. Cioè la pena di la pena di morte per chi ruba è prevista in alcuni paesi arabi. La realtà... Se ti piacciono tanto, vai lì, la vai realtà... in Iran, la realtà... dove chi ruba... Sì. A chi ruba viene impartita, viene comminata, pardon, la pena di morte. Comunque lui sosteneva in realtà che il ladro gli aveva tolto dalle mani il fucile, era partito un colpo, non voleva uccidere, questa chiaramente è la difesa. Però amici miei ascoltatori di questa meravigliosa trasmissione, 9 anni e 4 mesi a un signore che certamente ha inseguito per strada, quindi non c'è neanche il la violazione ladro, di domicilio il ladro inseguito per strada 9 anni. Beh, se vi piace vi piace un mondo così, tecnicamente è un assassino. Vi piace un mondo così? Il rubare una cosa non è sullo stesso piano della vita. Se vi piace, capito? Questo mondo qua va bene, ma per non carità. Vuol dire difendere i ladri, però non vuol dire che difendere è i ladri. Che ti è successo? Mi è venuto uno stranguglio. Che ti è successo? Uno stranguglio. Allora, chiudiamo con Fabio da Napoli. Fabio, allora la relazione con la nigeriana come va? Prosegue No, passò. Peppe, mi dedichi un minuto per fare una domanda apparente? Un minuto proprio, Fabio, un minuto, dai. Sì. Ma ora sono passati 80 anni dall'eccidio degli ebrei, ma quanti anni dureranno ancora per cui gli ebrei si lamenteranno ancora di questa cosa? Vabbè, ma che c'entra allora, questo, caro amico ascoltatore, mio, cioè... nessuno si sta lamentando, non è così di lamentarsi. Il tema è mal posto. Perché è diventata una nenia assurda. Vabbè, lei si è passato dalla nigeriana che è sotto casa sua, le fa un pompino, ecco, per non so quanti, 30, capisci 40 l'autorevolezza, euro. Capisci no, l'autorevolezza quello, della bene, discussione che mi tocca sopportare. Però lui ha detto la nenia, amico mio, è giustamente, c'è stato l'olocausto. Ma se riguarda l'Europa, ma chi si professa fascista è un ignorante, perché il fascismo non diventerà mai possibile più, è benissimo, il nazismo, meno quindi male che lo dice lui, sono meno, tutte cazzate per fare come ha detto tutto. Ieri la Mussolini, come ha detto ieri la Mussolini, sono tutte minchiate, c'è il pericolo del fascismo, c'è il pericolo dei cretini. Davide da Vicenza, Davide Vicenza, vai Davide. Ciao David. Dimmi. Ciao. Sì, niente, ci sono anch'io, perdonami. Sì. No, ma così per dire, insomma. Vai, dimmi. Sì, volevo portare la mia esperienza vissuta con mia moglie. Mia moglie aveva un negozio di oreficeria. 3 anni fa, 4 anni fa, adesso non mi ricordo molto bene, è stata rapinata. Sì. Mi dispiace. Al ladro è partito un colpo, ha sfiorato mia moglie. Sì. Sotto la minaccia della pistola ha dovuto aprirle tutte e due le porte. Sì. Hanno preso questo ladro. Sì. Non ha fatto un giorno di carcere. Come al solito, sì, poi. Non ha fatto un giorno di carcere. Mia moglie in quel, in quel fatto si è pisciata sotto, ma non in senso metaforico, ma in senso fisico. E vabbè, per cui umiliazione. Sì, poi. Ok. Io dico che umiliazione. Se fosse una reazione anche normale, perché voglio dire, se terribile. Fosse successo, cioè... scusami, Davide, dimmi. Se fosse successo qualcosa a mia moglie. Sì. Ok, di tragico, io avrei vissuto la mia vita per uccidere questa persona. Questo posso anche capirlo. Scusatemi, reputo David una persona estremamente intelligente. Ho detto posso Spero capirlo. Che capisca il mio Ho stato detto d'animo. Posso capire lo stato d'animo, sicuramente. Vi infatti ringrazio chi... e vi ascolto per radio. Ciao Davide, grazie. Ciao. Io ho detto che capisco lo stato d'animo, sicuramente. Ragazzi, fermi tutti qua. Fra poco, dopo la pubblicità, collegamento con il signor Marco Columbro, che ci parlerà di alieni. Gli alieni e gli UFO che dice di aver visto, di aver toccato. Tra pochissimo, Marco Columbro. Restate con noi, Questo non... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Andiamo avanti. Mi piace stare nel tuo salotto, stronzo. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. I think that I'm the only one who's lonely. Someone calls on me. And every now and then I spend my time at rhyme and verse and curse those faults in me. Allora, Cruciani. Ieri ho ascoltato la replica della Zanzara e sono andata a cambiare le lenzuola perché mi sono resa conto che non mi ricordavo più l'ultima volta che le avevo cambiate, sicuramente molto più di un mese fa. Quindi volevo dire a Parenzo, io faccio la doccia una volta alla settimana, anche i bambini, cambio le lenzuola se mi ricordo quando ho tempo e ci saranno anche tanti batteri in giro, però questa cosa non fa male, anzi fortifica. E infatti i miei figli non si ammalano mai, siamo al 10 di dicembre e non hanno ancora perso un giorno di scuola, mentre tutti i giorni qualche compagno di classe è a casa con influenza, bronchite e cose varie. Io anche non mi ammalo mai, saranno 3 anni che non faccio un giorno di mutua. L'unico un po' cagionevole in famiglia è mio marito, ma lui si fa la doccia tutti i giorni. E anche te, Parenzo, con tutta questa mania dell'igiene, non mi sembra che a salute sei messo benissimo, hai sempre quella tosse fastidiosa, mentre Cruciani, che fa una vita più dissoluta della tua, si lava poco e ha 10 anni di più, mi sembra più in salute. Molto brava questa allora, ascoltatrice. Intanto molto... dico a questa simpatica cornuta che cambiare, faccia vivere i suoi figli come meglio crede, ma la zozzeria di non ricordarsi di cambiare le lenzuola, di non farsi la doccia e spacciare tutto questo per una questione di anticorpi mi pare una follia, guarda. Zozzoni. Fermi tutti. Torna la rubrica sugli indagatori dell'incubo. Sempre protagonista lo scettico Parenzo e il sottoscritto, chiamiamo il signor Marco Columbro, che nei giorni scorsi ha detto che i capi di Stato incontrano gli alieni e anche lui forse una volta ha avuto contatti con gli UFO. Sì, pronto? Caro Marco? Chi è? Sono Cruciani, ciao, come stai? Uè, ciao. Volevo sentirti su questa storia degli alieni che mi ha colpito molto. Ma se c'è una cosa a sé non ce la prendo per il culo perché non voglio perdere tempo. No, non ti sto prendendo per il culo, assolutamente no. Perché presa per il culo? Assolutamente no, cioè chi ci crede a queste cose non va mai preso per il culo, assolutamente no. Ma io non ci credo, io ne sono convinto che è diverso, io la parola credere non la uso mai, uso convinzione interiore che è molto meglio, la credenze sono quelle che hanno rovinato il mondo. Sì. Io ho la consapevolezza che esistono altre vite oltre la nostra nel cosmo. Ma la consapevolezza da che cosa diviene? Da una mia consapevolezza interiore innanzitutto, da studi che ho fatto, sì, e poi da fatto che ho conosciuto e conosco molte persone che studiano questi fattori e persone che hanno contatti anche in questo senso. Cioè hanno persone anche che hanno contatto con gli alieni, dice, hanno contatti continui con... Hanno contatti telepatici con le entità che vivono in altri mondi, insomma. Ma che tipo di contatti? Tu stesso li hai avuti questi contatti telepatici? No, io non ho mai avuto nessun contatto telepatico. Io ho avuto solo nel 1999 in Stati Uniti, andai a un congresso di ufologia, sì, in questa strada di New York, chiesi a Anna Hayes, che era la conferenziera, sì, di farmi l'autografo sul libro. Io guardai su in alto, non so per quale motivo, e vidi arrivare una sfera lattiginosa, neanche di luce, proprio bianco latte. Lattiginosa, sì. Lattiginosa, entrarono tre sfere, si misero triangolo equilato, cominciarono a dirsi: Anna, Luca, lei disse: sì, lo so, sono loro, ci stanno salutando. E sono poi, loro, cioè gli UFO, gli extraterrestri, scusami. Sì, disse, sono loro, ci stanno salutando, e poi loro sparì, queste tre sfere sparirono, se ne andarono di nuovo. Dunque si può sostenere che tu hai visto già ormai quasi 20 anni fa, hai visto degli UFO, hai visto degli extraterrestri? No, ho visto gli UFO, no, hai visto degli UFO, scusami. Ho visto quelli che vengono chiamati UFO. Sì. Ma tu credi che questi extraterrestri abbiano una forma, cioè abbiano una forma umana? Ci sono milioni di razze aliene nell'universo. Sì. Esistono una tipologia di extraterrestri che sono molto vicini a noi, sì, come forma, che vengono chiamati i nordici. I nordici. Perché sono alti, biondi, occhi azzurri, molto filiformi, però hanno un corpo fisico. Sì. E loro affermano, questi ufologi, che alcuni di loro vivono già sulla Terra, tra di noi, da moltissimo tempo. Tu hai detto un'altra cosa, che addirittura i capi di Stato sono in contatto, sì, con gli alieni. Esatto. E, anche esatto. E anche il Papa lo sa, cioè anche il Papa sarebbe in contatto, vero o no questa cosa? Beh, c'è un è stato scritto un libro su questo, di cui si parla che il Papa Pio XII era in contatto, ha avuto dei contatti con esseri di altri mondi. Ma un libro non è mica la verità, un libro può essere scritto anche da un malato di mente, da un pazzo, cioè non è mica... D'accordo tu, però siccome cioè tu da che cosa hai la scelta? La nipote di Eisenhower ha affermato che Eisenhower, quando era presidente americano, incontrò un extraterrestre che rimase sulla Terra per un anno e mezzo. Questo lo racconta lei, la nipote. Sì, ma vuol dire, quando tu... Quando tu parli... Perché deve essere sbandata? Dimmi, per quale motivo? No, sono Parenzo, Marco, scusami. Per quale motivo... Poverina. Io rispetto ogni idea. Ho capito, ma anch'io posso dirti di essere stato rapito dagli alieni, però voglio dire, la questione aliena. Beh, ma se lui crede agli alieni, che cosa vuoi fargli? Tu hai le tue idee, ognuno ha le ma sue. Ma se lui ci crede, punto e basta. Ho detto, va benissimo, io credo a Grande Puffo. Ho diritto a credere a Grande Puffo. Ti fa piacere per te, va bene, non c'è nessun problema, sai. Scusami Marco, secondo te la Terra è piatta? Secondo me no. Mio figlio, per esempio, è convinto che la Terra sia piatta, perché ha tutta una serie di... Tuo figlio? Un gruppo di persone che studiano queste cose, dice: abbiamo le prove. Beh, benissimo, dico, vabbè Luca, se te... Si sarà fatto influenzare un po' da te, magari, no? Cioè, no, io non ho mai detto che la Terra no, è piatta. No, sulla Terra, diciamo sulla... Abbiamo le prove. No, Luca ha una sua testa, va per conto proprio, non se la circolazione da nessuno. Gli alieni ti fanno paura a te, questi alieni? A me no, assolutamente, perché mi dovrebbe far paura? Insomma, gli alieni potrebbero far paura nel cinema. Se tu vedi certi film, a volte fanno una filmografia in cui fanno di tutto per crearti paura, ma poi la paura è l'arma più pericolosa che esiste da adottare in un popolo, no? Cioè tu incuti paura in un popolo di malattia, che arriva la guerra, e tu hai praticamente un popolo di coglioni, di sottamboli, e li governi come vuoi, capito? Ma esiste un governo mondiale, secondo te, che ci nasconde la verità? Beh, non lo dico io, lo dicono tanti scrittori revisionisti, questo non c'è dubbio. Cioè, c'è una cupola che governa il mondo, cioè? Esiste. David Icke dice da anni, scrive dei libri interessanti in cui parla di 300 famiglie a cui fanno capo i Rockefeller e i Rothschild, che governano e fanno il bello e il cattivo tempo sui vari governi mondiali. Dunque gli ebrei praticamente, gli ebrei che governano il mondo. No, non sono gli ebrei, casomai è una corrente sionista. sionistica più che ebrea. I sionisti che governano il mondo. Siamo arrivati anche a questo. Su questo direi che possiamo chiudere, perché abbiamo detto. No, volevo capire questa cosa dei capi di Stato che sono in contatto con gli alieni. Ci mancava. Cioè, questi, ma i capi di Stato di adesso, secondo te, sono in contatto? C'è l'ex ministro della difesa canadese, sì. Paul Harry. Sì. Lui sono 10 anni che fa conferenze in tutto il mondo, sì. e dice: gli UFO sono una realtà e gli extraterrestri anche. Tutti infatti l'hanno rinchiuso in un ospedale. Lui dice, Paul Ellery, i capi di Stato dei grandi paesi mondiali, Cina, Giappone, eccetera, eccetera, sanno benissimo che queste realtà esistono e sono in contatto da decine di ma anni. Ma come si parlano? Questo non voglio, vorrei capire. Cioè, i capi questi di si parlano perché questi vengono, si materializzano e vengono direttamente ma a parlare. Ma cosa succede? No, parlano aspetta, solo no, voglio per capire, parlano solo con i capi di Stato o ad esempio anche con Alfano? Per capire, perché se ad esempio Alfano non si candida, però è in contatto con gli alieni, noi potremmo riconsiderare il ruolo di Alfano, ad esempio, in Italia. Perché scendi sempre queste battute? No, questo me lo dovete consentire. Non è una battuta. Cazzo, più esteri degli alieni che cos'è? No, no, sicuramente esteri. Ma io non lo so se l'hanno. Che cazzo ne so? Mettiamoci d'accordo. Però scusami, Marco, allora, il ragionamento, seguendo il ragionamento ovviamente ironico, un po' di Parenzo, che è questo. No, no. Aspetta, aspetta un attimo. Tu hai detto vengono e poi, e poi spariscono, ma dove vanno? Negli uffici dei capi di Stato? Vengono presi dei contatti, non so esattamente con chi. Vengono presi dei contatti, poi arrivano sulla Terra, arriveranno con i loro mezzi. Sì, mezzi, sì. Così è, dicono che si è presentato quello negli Stati Uniti, quando Eisenhower l'ha ricevuto. Ma, sì, Eisenhower, forse. Vabbè, Eisenhower. Comunque, si materializzano e poi? E poi dopo, se non hanno l'Eisenhower, gli ha detto un 2 di picche e se ne andò. Dice, vabbè, sì, ma come parlano adesso con i capi della Cina, del Giappone, quello che hai detto parlano tu prima? Parlano tutte le lingue, non hanno problemi. Parlano tutte le lingue. E poi a un certo punto parlano tra di loro e poi praticamente se ne vanno, d'accordo. Allora, giustamente Parenzo dice, anche in Italia può accadere, c'è un interlocutore che è l'attuale ministro degli esteri, oppure noi siamo troppo piccoli per parlare con gli alieni? No, non lo so, te lo so dire questo, non ho questo idea. È interessante, se Alfano parla con gli alieni, però giustamente Parenzo ci andrebbe rivalutato il suo ruolo, è stato denigrato da tutti quanti, invece potrebbe avere un ruolo centrale. Chiamalo e senti se lui ha avuto contatti con gli alieni, che ne so io. Ad esempio, se, ad occhio, Cicchitto può avere avuto rapporti con gli alieni, quello sì, vedendo Cicchitto così, senza... Come dire, voler offendere nessuno. Tu sei, per esempio, ti occupi di esoterismo, no? Sì. Anche. In che senso? Spiegami. Beh, nel senso che io ho avuto i miei primi maestri spirituali che erano stanieriani, per cui Stein è stato il fondatore dell'antroposofia. Poi negli anni 90 ho conosciuto un maestro tantrico tibetano, la Magan Trimpoce, che è un attuale mio carissimo amico e maestro. Tu per esempio sei a favore della medicina alternativa? Ma io mi curo dagli anni 70 con l'omeopatia. Cioè tu non credi alla medicina tradizionale? Ai vaccini ci credi, per esempio? Ma per niente. Ah, niente, per te i vaccini sono una cosa delle multinazionali, un grande affare delle multinazionali e basta. Su questo non c'è dubbio, dire, non occorre che lo dica io. Alla chemioterapia ci credi? No, per niente. Cioè tu se avessi un cancro non ti cureresti con la chemioterapia? No, neanche per idea. Ho capito, si muore però se uno non si fa la chemioterapia. Ma non muore nessuno, io non credo nella morte, credo nella morte del corpo fisico, ma essendo un essere spirituale multidimensionale non muoio mai, noi siamo eterni. Ho capito, amico mio, però Marco, se uno è malato di cancro e non fa la chemioterapia, la maggior parte delle volte crepa. Cioè, non è vero, ci sono le persone che hanno fatto delle terapie alternative e sono guarite. Cioè, cui, secondo te la chemioterapia ammazza invece, quella è la roba che ti ammazza. Ma tu non sai la chemioterapia cos'è, da dove deriva? È una parte della bomba che usavano nel Vietnam gli americani. Come una parte della bomba? Come una bomba? Cosa stai dicendo, scusami? Deriva dalla bomba che usavano gli americani in Vietnam. Ma non credo proprio, scusami. Ma io non lo so, cioè, hai detto troppo Topolino, però. Allora informati. La chemioterapia è come avere un target a 100 metri, no? E un cannone. Secondo te porta via, colpisce il centro o porta via tutto il quadrante? Colpisce tutto il quadrante, sì. La chemioterapia è un cannone, porta via tutto. Ti distrugge il sistema immunitario, per cui rischi di morire anche. Cioè, se uno c'ha 70 anni, vive grazie alla chemioterapia 10 anni di più e poi muore, è evidente che ha vissuto 10 anni di più grazie alla chemioterapia, no? Ma che discorsi sono? Fatti la pena la chemioterapia, io non me la faccio, non me ne frega niente. Ma io spero di non dovermela mai fare, spero. Poi... Sicuramente qualora mi dovesse, Dio non voglia, capitare un male terribile come quello, sicuramente non mi faccio curare con le le bacche nel culo. Sicuramente faccio. Ma quale male terribile? Ma la morte non esiste. Se voi avete ma ragazzi, avete la morte. Ma dove siamo? Su reality, in un reality show? Se dovesse capitare. No, senti, per cortesia, io accetto che Alfano possa parlare con gli alieni. Io accetto tutto. Accetto gli alieni, la nipote di Eisenhower. Però, e anche Alfano e Cicchitto che parlano con gli alieni ogni giorno. Ma fatti una camomilla, cara. Mamma mia, che sei? Sulla chemioterapia. No. Sulla chemioterapia. Non si può. Non si può avere un'idea diversa. Al posto delle cure tradizionali, quando nel caso di malattie gravi, tipo appunto il cancro, eccetera, che cosa prendi tu? Ci sono delle. Tu no, perché non le hai ancora prese, ma che cosa consiglieresti di prendere? Che ci sono dei rimedi naturali? Ma lo stesso ascorbato di potassio. Ah, il potassio. No, l'acido ascorbico. Sì. La vitamina C presa ad alte dosi. Sì. C'è un professore all'Università di Siena che sta facendo questi esperimenti, sta curando il tumore all'occhio con grande successo. È risaputo che la vitamina C toglie ossigeno al tumore e quindi fa un lavoro. Cioè, meglio quella della chemioterapia, dici? Direi. Almeno quello non ti distrugge il sistema immunitario, no? Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao a tutti, ascoltatore. Ciao, grazie. Signor Columbro, il signor Marco Columbro. Sono allibito. Marco Columbro. Sono allibito. Allora, Paolo da Roma. Paolo da Roma, ma allibito anche da te che gli davi il filo. Le persone vanno fatte parlare. Paolo da Roma, vai. Sulla chemioterapia, delle cose incredibili. Guarda. Dimmi. Ciao Luciani, senti, volevo la morte non esiste, poi la morte non esiste. Non esiste, spero, ma che vuol dire? Muore, è morto, non c'è più. Paolo, vai, dimmi. Mamma mia. Allora, volevo ritornare sul discorso della difesa dentro casa. Allora, voglio dirti solo una cosa. Allora, io lavoro per il studio di vigilanza. Ti premetto. Sì, allora? Allora, devi dire a Parenzo. Qua? Sì. Che gli posso garantire che dal momento che tu da casa chiami le forze dell'ordine, se sei fortunato che abiti in città, ci mettono minimo mezz'ora ad arrivare, e te lo posso garantire, perché io questo lavoro lo faccio tutte le notti, e nonostante tutto che i nostri canali diretti con le forze dell'ordine, dunque che vuoi dire? Che vuoi dire? Che è giusto armarsi? È giusto avere un'arma dentro casa? È giustissimo, ma non solo armarsi, ammazzarli proprio, perché se tu entri in casa mia e minacci la mia famiglia. Sì, ti sento male, Paolo, ti sento male, non so dove sei, ti sento un po' gracchiante come voce, un po' gracchiante. No, mettiti meglio. No, ma capisco cosa dice lui. Allora? In realtà. Allora, dal momento che tu entri in casa mia e minacci la mia famiglia o mia figlia. Lei si può difendere. Però è curioso, tu sei una guardia giurata. Sei una guardia giurata. In sostanza, stai sostanzialmente dicendo è giusto ammazzare i ladri. È giusto ammazzare gli altri se vengono minacciati di morte. Cioè tu hai detto che il discorso tu sei nel giardino. Paolo, ma tu stai cambiando la voce, c'è un meccanismo per modificare la tua voce, no? No, sicuramente no. Sento che parla più lontano dal microfono del telefono. Comunque ho capito benissimo, devi dire qualcos'altro. Allora, in che senso? Se io accendo la luce, tu stai nel mio giardino e scappi, posso anche non spararti. Ma se tu mi affronti e mi vuoi fare del male, è giusto che io dispari. Vabbè, ma questo si sa, dai. Paolo, si sa. Ciao, Daniele da Padova, dai, Daniele. Ciao Giuseppe. Vai, dimmi. Giuseppe, riguardo le mutande, sono pienamente d'accordo con te. Le mutande vanno cambiate quando serve. Ok. Detto questo, il signor Parenzo si dimentica, naturalmente come la maggioranza silenziosa, che cambiarsi le mutande due volte al giorno vuol dire consumare acqua per lavarle, detersivo, poi si lamentano dell'inquinamento, si lamentano che manca l'acqua, si lamentano dei consumi e tutto quello che ci va dietro. E ti dirò di più, io penso che Parenzo avrà fatto il militare. E allora? Credo, a meno che non fosse stato imboscato. Scusa Daniele, quante volte te le cambi le mutande? Quante volte te le cambi? Le cambio quando serve, una volta a settimana. Bravo, avanti così, è un partito che sta crescendo. Ragazzi, a domani, ciao, domani. I Doriani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E cancella le mie foto.